La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Radio 24. In questo lunedì 29 di dicembre siamo in diretta qui da Milano, 16:31 primi 20 secondi. Approfittiamone in questi giorni in cui c'è un minor carico pubblicitario, la trasmissione dura un po' di più. Allora vi dico subito il tema del giorno per sollecitarvi, se volete, a chiamare per darci la vostra opinione. 800 24 0024 il numero, e per gli sms 349 238 6666 lo sapete. Allora, la domanda è semplice. Avete visto probabilmente in questi giorni le polemiche post natalizie sui giornali a proposito della riforma del lavoro, il Jobs Act, e dei due decreti attuativi varati la vigilia di Natale sull'articolo 18 e sugli strumenti di sostegno al reddito per chi perde il lavoro, la polemica che è divampata nella scoperta, io mi sono fatto due risate visto che lo ripetiamo da mesi, tardiva di alcuni politici, anche membri della maggioranza, che hanno iniziato a dire: ma com'è che non si applica ai dipendenti pubblici e solo ai lavoratori privati? Grave errore, dovrebbe essere automatico che valga anche per i dipendenti pubblici e non solo per i privati. Tra questi il professor Ichino, senatore che fa parte della maggioranza, eletto da Scelta Civica, anche appartenenti a NCD hanno detto la stessa cosa. E la domanda che vi faccio è duplice: è giusto per voi che valga solo per i dipendenti privati e non anche per quelli pubblici? Vi piace che sia così? Ditecelo 800 24 0024. Per quello che mi riguarda, io ho scritto in questi giorni rispondendo a una questione che è quella di fondo per chi fa il giornalista e deve informare, cioè quella di documentare e capire prima, ma documentare se il Presidente del Consiglio avesse ragione e i membri del governo che poi sono intervenuti, come il Ministro Madia della Pubblica Amministrazione e il Ministro del Lavoro Poletti, avessero ragione a torto nel dire no, il provvedimento non si applica ai dipendenti pubblici ma solo a quelli privati. Allora, a questa domanda, se avessero ragione o torto, lasciando in un angolo il fatto che io vorrei che si applicasse a tutti i lavoratori senza frammentazioni tra pubblico e privato, così come i diritti li vorrei più o meno uguali tra i lavoratori dipendenti e gli autonomi per quello che riguarda il welfare quantomeno e i sostegni al reddito quando si perde il lavoro, ma questo è un punto di vista politico. Ma alla luce delle leggi vigenti, avevano torto o ragione quelli che dicono nel governo: ma che vi inventate, visto che le nuove norme sul licenziamento, tanto per dirne una, è sempre stato chiaro che valgono solo per i dipendenti privati e non per quelli pubblici? Ecco, su questo tema, prima di andare alla risposta e di presentarvi l'ospite, abbiamo le parole pronunciate in tardissima mattinata, a ora di pranzo, dal Presidente del Consiglio. Oggi dalle 12:30 alle 2:30 c'è stato l'annuale appuntamento della conferenza stampa di fine anno del Presidente del Consiglio, che mentre dava in diretta gli sviluppi del traghetto in fiamme e del salvataggio progressivo fino alla fine di tutti i passeggeri, è sbarcato anche per ultimo il comandante, verso il quale poi apporremo i fatti, ma secondo me merita un elogio per come si è comportato il comandante italiano del traghetto in fiamme. Ma detto tutto questo, a un certo punto, richiestagli un'opinione di chiarimento su questa cosa del Jobs Act solo per dipendenti privati e non pubblici, Renzi così ha risposto: il Jobs Act, che io considero un passo in avanti importantissimo, non si occupa di disciplinare i rapporti all'interno del pubblico impiego, perché c'è già in Parlamento, in questo momento in discussione in Senato, lo strumento normativo che deve disciplinare i rapporti del pubblico impiego. Inserire, come era stato fatto, una norma per dire riguarda anche o non riguarda i lavoratori del pubblico impiego sarebbe stato non corretto. Allora, i giornalisti presenti, critica nei confronti dei colleghi, non hanno capito che il Presidente del Consiglio stava dicendo che è stato lui a levare la norma dalla legge delega, quando si è parlato della legge delega, non del decreto attuativo, che parlava anche di applicazione tra privati e pubblici. Ma la norma di cui il Presidente del Consiglio ha chiesto e ovviamente ottenuto la Cassazione, cioè che venisse meno, non diceva che il Jobs Act si applicava sia ai dipendenti privati che a quelli pubblici, ma semplicemente chiariva che non si applicava anche a quelli pubblici. Questa è la norma che Renzi ha fatto levare dalla legge delega. Ora, su questo bisogna ricordare a chi è in ascolto una cosa. Nel nostro ordinamento come funziona? Sono omologati il rapporto di lavoro privato o pubblico? Il professor Ichino ha sostenuto di sì, automaticamente sì, perché, dice il professor Ichino, la riforma dei contratti dei pubblici dipendenti, iniziata negli anni 90 e in particolare poi culminata con la riforma del decreto legislativo del marzo 2001, 165, cioè quella che ha assimilato ai contratti privati quelli del pubblico impiego che vengono contrattati tra ARAN e sindacati di settore, questa cosa automaticamente omologa i rapporti privati e pubblici nelle modalità di licenziamento e quindi anche di assunzione. Ergo, il Jobs Act per il professor Ichino vale anche per i pubblici dipendenti. Il giornalista, anche se in teoria la pensa come Ichino, che dovrebbe valere, ha l'obbligo di dirvi che non è così, però. Perché se uno va a vedere le sentenze accumulate dalle sezioni riunite della Corte di Cassazione, dalle sezioni civili della Corte di Cassazione e soprattutto numerosissime, numerose sentenze della Corte Costituzionale negli anni successivi alla riforma dei contratti pubblici di inizio anni 2000, trova un mucchio di sentenze della Corte Costituzionale, io le ho citate in una cosa che ho scritto questo fine settimana, la sentenza 146 del 2008, la sentenza 275 del 2001, la sentenza 82 del 2003 della Corte Costituzionale, in cui la Corte Costituzionale sempre, sempre, senza mai allontanarsi da questa via, riafferma ogni volta che, malgrado l'assimilazione dei contratti pubblici alle modalità di sottoscrizione di quelli privati, il pubblico impiego nel nostro ordinamento, a giudizio della Corte Costituzionale, ai sensi dell'articolo 97, cioè l'articolo della Costituzione che dice che la pubblica amministrazione deve orientarsi, deve uniformarsi a criteri di indipendenza nei confronti della politica che pro tempore amministra, allora da quel punto di vista, per questa garanzia costituzionale, dice la Corte Costituzionale, i pubblici dipendenti continuano ad avere una specificità testuale dalle sentenze irriducibile, nel loro lavoro pubblico rispetto a quello dei rapporti di lavoro dipendente privato. Sono sentenze della Corte inequivoche, quindi chi è convinto che il Jobs Act, come me, debba applicarsi a tutti, deve chiedere che quella scelta sia scritta esplicitamente e soprattutto argomentata in maniera convincente, perché sennò la Corte Costituzionale, come ha fatto più volte negli anni, la cassa, perché c'è un problema di garanzia costituzionale su quell'indipendenza che è quella infatti che porta alle assunzioni pubbliche, almeno in teoria, ma insomma è così, per concorso pubblico invece che per scelta come avviene nel privato. Questo è lo stato degli atti che secondo me fa abbastanza giustizia delle polemiche politiche. Posso capire parti della maggioranza che si inventino ex post che bisogna applicarlo anche ai dipendenti pubblici, ma il fatto è che noi queste sentenze, se facciamo il nostro mestiere, non possiamo dimenticarcele. Allora, detto tutto questo, e ribadito che io sono per la parificazione dei rapporti, però non posso prendermela con una parificazione che non esiste, perché non è mai stata scritta in questo provvedimento e che altrimenti non può automaticamente valere, sentiamo come la pensano i sindacati. Anzi, abbiamo un rappresentante sindacale, abbiamo Guglielmo Loi, che abbiamo sentito anche poco tempo fa, il segretario confederale della UIL, e io lo saluto e lo ringrazio di essere qui con noi oggi pomeriggio. Grazie a Loi. Grazie a voi, buon ascolto a tutti. Allora, dal punto di vista vostro, le polemiche di questi giorni, nel merito della omologazione, uno, due, e nel merito della... di quello che c'è scritto nella legge delega e nei primi due decreti attuativi, voi come la pensate? Ma, un po' come ha ricostruito lei, una scelta così delicata come superare la atipicità del rapporto di lavoro pubblico nel nostro paese non può essere affrontata né con un comma né con una virgola né con furbate, nel senso che non si è esplicitato con nettezza che era questa la volontà, e quindi la mancanza o l'inserimento di una frase non può affrontare un tema di questo tipo. Il tema è molto delicato, lo sintetizzava lei, è giusto, come dire, organizzare il lavoro pubblico diversamente da come adesso, è giusto che vengano inseriti elementi, diciamo, di maggiore competitività, produttività ed efficienza. È probabile che l'attuale sistema non riesca a rispondere a questo tema, però di fondo è chiaro che c'è una diversità rispetto al lavoro privato, quella più chiara l'ha esplicitata lei chiaramente, cioè l'assunzione non può essere fatta per scelta, diciamo, tra virgolette, del datore di lavoro, perché il datore di lavoro è un politico e quindi evidentemente il condizionamento deriverebbe da questa condizione. Quindi la concorsalità pubblica, che pure dà fastidio a molti, ha una valenza, poi si può essere fatta bene o male, peraltro ultimamente se ne è fatta poca, quindi il problema manco si porrebbe. Quindi va trovata una strada nuova, veramente innovativa, che non può essere affrontata con scorciatoie come quella che si è forse tentata, consapevolmente o meno per alcuni ministri non lo sappiamo, con l'inserimento e poi la scomparsa dal decreto attuativo della famosa frase che lei ricordava, che ripeto prima. Però era inequivoca e diceva non si applica, non c'è mai stata scritta la frase che si applica, sì, esatto, perché esatto. Questo è così, me lo hanno anche confermato alla funzione pubblica, quindi io ho fatto il mio mestiere, poi come la penso io è un altro paio di maniche. Però se uno deve entrare nel merito per spiegare chi ha ragione e chi ha torto, deve vedere che questo è un argomento sul quale la Corte Costituzionale, ripeto, moltissime volte si è pronunciata. Detto questo, adesso entriamo poi nel passo successivo, perché Renzi stamattina ha detto: forse per me, vedremo la riforma Madia, ma per me bisogna licenziare la pubblica amministrazione, chi non fa il suo dovere, chi non ha elevata produttività. Cioè lui ha detto: io sono per la parificazione, ma ha detto: ne parleremo nella riforma Madia. Adesso io le chiedo come la pensate voi, come vi attrezzate voi a questo. Intanto sentiamo alcuni dei nostri ascoltatori, cominciando con Regina, che chiama dalla provincia di Treviso. Prego Regina. Sì, buonasera. Giannino, io sono una dipendente pubblica e vorrei che venisse applicato il Job Act anche ai dipendenti pubblici. Primo, perché altrimenti questo ci mette sempre in una condizione di veramente siamo mal visti, sì. Primo, secondo, cioè, gli altri dicono che godete di privilegi. Sì, sì, in parte è vero. Secondo, ci vorrebbe veramente un sistema, certo, rispettando le specificità di ogni, certo, lavoro, ci vorrebbero le stesse regole. Io sono entrata nella pubblica amministrazione più di 20 anni fa e quasi, le dico la verità, mi vergognavo di lavorare in un posto che ci dava determinati privilegi, tipo l'andare in pensione a 24 anni. Finalmente poi è arrivata quella riforma che ha unificato e ha portato dipendenti pubblici e privati a un'età pensionabile a 35 anni di lavoro. Poi no, è cambiata di nuovo, perché poi il governo Berlusconi ha portato la pensionabile delle donne più alte. Cioè, criteri assolutamente che servono, come dice lei sempre Giannino, a dividere tutti i lavoratori, a metterti l'unico contro l'altro. Poi nella pubblica amministrazione, le assicuro, non esiste merito, non esiste, e per cui temo veramente che si continui. Io sono entrata nella pubblica amministrazione dopo aver fatto tanti anni nel privato e vedendo determinate cose che però sono cambiate, posso anche dire che sono cambiate. Dicevo fra me, Dio mio, ma questo mio collega non teme di essere licenziato? Ci ho messo anni a capire che avresti potuto fare qualunque cosa. Quasi qualunque, no, speriamo. Io devo anche ricordare a chi è in ascolto che nel 2008-2009... con la contestata riforma Brunetta dell'epoca c'è stato un giro di vite, eh? Il giro di vite c'è stato sia su con un nuovo regolamento disciplinare della PA, in teoria è giusto motivo di licenziamento una PA, un'assenza non giustificata di 3 giorni in 3 anni, per essere chiari, e ricordate tutte le polemiche anche sull'assenteismo, sul giro di vite, il primo giorno da giustificare con il certificato medico. Io all'epoca scrissi che naturalmente ero a favore, ma non, questo non mi esimeva dal dire che esistevano ancora e continuano a esistere alcuni contratti privati che non sono ancora scaduti in questo 2014 in alcuni settori, in cui la cosiddetta carenza, cioè il giorno di assenza senza giustificazione medica per malattia, c'è ancora in alcuni settori del privato. Quindi bisogna stare attenti, perché è vero che noi tutti, io per primo, dico la PA unifichiamola, però ci sono voci anche da di dentro come questa di Regina, fortemente autocritiche, come sentite. Abbiamo le strade in collegamento? Sì, allora un minuto di informazione stradale e poi le prime osservazioni di Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL, a questa telefonata. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornate in diretta, 16:47 primi e 6 secondi. Alcuni sms, stiamo parlando Jobs Act solo per dipendenti privati e non pubblici. Abbiamo visto le basi ordinamentali in cui in realtà questa scelta è coerente a quello che c'è fino ad oggi nell'ordinamento. Per cambiarla bisogna farlo esplicitamente e spiegarla. Io sono per cambiarla, ma questo non mi impedisce di dire che chi oggi dice che automaticamente Jobs Act vale anche per i pubblici, beh, è fuori dall'ordinamento italiano. Polemica politica, ma legittima. E con noi Guglielmo Loi, segretario confederale della UIL. Abbiamo avuto una prima telefonata di una dipendente pubblica, Regina da Treviso, che dice: io però sarei per l'omologazione. Che dice Loi? Noi siamo tentati da questa sfida, perché la cosa peggiore è quella di prendere un pezzo, diciamo, di normativa pubblica, un pezzo di normativa privata, mischiarle, col risultato che non si capisce più niente. Come ricordava lei, nel pubblico impiego oggi teoricamente è possibile licenziare, poi la sua attuazione pratica è molto relativa. La sfida è interessante, cioè prendiamo tutto il sistema privato, il che vuol dire però chiaramente che la politica si deve rendere conto che farà un passo indietro. Cioè quello che è successo in questi anni, che per legge, ripeto, per legge decisa dalla legge di stabilità, quindi dalla politica, si sospende la contrattazione, perché questo è successo, certo. Con un sistema privatistico non potrebbe succedere, o meglio, sarebbe affidata, diciamo, alla volontà delle parti, non normata dalla legge. Certo. Ricordiamo a chi ci ascolta che noi siamo in anni con blocco permanente del turnover nella pubblica amministrazione, blocco automatico degli scatti, esattamente, del retributivi previsti. Questa norma imperativa è quella che ha fatto scendere di 250.000 unità il totale per il turnover dei pubblici dipendenti del nostro paese in questi anni di crisi e che ha diminuito in senso reale il totale della spesa pubblica, sono più o meno 158 miliardi annuale in questo 2014 in termini reali e non nominali rispetto a prima di salari ai pubblici dipendenti. Con queste cose imperative, se fossero fatte nel privato, ci sarebbe l'insurrezione alla piazza piena, come ovvio. Prego, l'ho interrotta. So, oppure sarebbe affidata, come dire, si usava dire un tempo, ai rapporti di forza, cioè alla convenienza delle parti, no? Come succede nel privato. Nel privato non c'è un obbligo di legge a rinnovare i contratti, ci sono motivi di opportunità, di convenienza, di compatibilità che le stesse parti, datori di lavoro e lavoratori, riescono a più o meno a gestire attraverso rinnovi a volte gloriosi per i lavoratori, a volte fatti di sacrifici a seconda della congiuntura economica. Però lei dice, c'è un malgrado, sareste tentati di seguire un po' la strada che ci diceva Regina di omologare? Assolutamente sì, anche, ripeto, rischiando da un certo punto di vista, rimane un principio che è quello che ricordava lei all'inizio e che ricordo anch'io, della terzietà del lavoratore pubblico rispetto al datore di lavoro, che è un caso un po' anomalo perché è un politico e i politici, giustamente o non giustamente, non guardano esclusivamente, diciamo così, alla redditività aziendale, ma guardano al consenso, e l'acquisizione del consenso purtroppo ha parametri che sono diversi dal guadagno dell'azienda, quindi dalla questione produttività. Molto delicata, oltre al rischio ovvio, diciamo così, di discriminazione o di non eccesso di amicizia del datore di lavoro verso alcuni lavoratori rispetto ad altri, questione ovviamente molto delicata perché il pubblico deve garantire, come dire, appunto terzietà, equilibrio nella gestione della cosa pubblica. Aggiungerei, visto che è un argomento molto attuale, che questo intervento invasivo della legge sulla normativa pubblica della contrattazione, diciamo così, ha prodotto certamente i dati che ricordava lei, ma anche un processo di anarchica esternalizzazione di alcuni servizi. Ah, certo. Perché, diciamo la verità, alla fine la politica, con il nostro consenso o il nostro silenzio, la nostra impotenza, dipende dai momenti, ha risolto il problema. Per esempio la nascita e il proliferare di società pubbliche, che lei conosce molto bene questi temi e che anche noi abbiamo denunciato negli anni scorsi, le famose 7-8.000 società, non sono solo per dare un posto da presidente o da consigliere d'amministrazione, sono per aggirare la normativa rigida del pubblico impiego in termini di concorsualità e quindi di assunzioni. Sì. Quante persone sono state assunte nell'area pubblica? Esattamente così. Pubblici dipendenti, interrogativo. È esattamente così. Oggi mi è toccato su questo insieme ad altri colleghi come Jacoboni della Stampa rispondere in diretta con Twitter a Renzi, che a questo proposito diceva che non c'è mai stato un piano Cottarelli sulle municipalizzate locali. Gli abbiamo ricordato, indicandogli il documento del governo con tanto di pagina, pagina 39 e 40 di slide presentate da Cottarelli nell'aprile scorso, in cui erano elencate le 33 misure concrete che Cottarelli aveva scritto nel cassetto. Però insomma, detto questo, sentiamo ancora come la pensa Maurizio, che chiama da Milano. Prego Maurizio. Maurizio, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giannino. Io volevo dire che la legge dovrebbe essere uguale per tutti, diritti e doveri, soprattutto per quanto riguarda gli stipendi, le pensioni. Non possono essere trattati in modo diverso tra pubblico e privato, pubblici amministratori e privati amministratori. La legge deve essere uguale ed uniforme per tutti. Se non c'è l'eguaglianza, siamo sotto una dittatura. Secondo me in Italia attualmente viviamo in una dittatura democratica, in cui i diritti sono solo per alcuni che stanno al vertice, alcuni magari decine di migliaia. Forse sarebbe meglio avere un solo re, forse. Tra l'altro oggi su un grandissimo quotidiano italiano c'è, a proposito che lei ha appena citato, dittatura e democrazia, un sondaggio. Vale, come tutti i sondaggi, però mi ha fatto molto riflettere, perché poco meno dei due terzi oramai degli italiani difendono la democrazia attuale, e il rimanente terzo o preferirebbe un sistema autocratico oppure sostiene che in realtà la democrazia attuale, un po' come ha detto lei, non è poi così diversa da un'autocrazia, visto che i governi non sono scelti dagli elettori, eccetera eccetera eccetera. Non è mai stato così basso il consenso alla democrazia tra i cittadini italiani in un sondaggio come quello che si legge oggi. Sentiamo ancora Stefano da Vicenza. Prego Stefano. Stefano è collegato? No, Stefano non mi risponde, quindi è collegato, ma non riesco a sentire la sua voce. Lo richiamo per la terza volta? No, proviamo a richiamarlo, a sentire un secondo se vuole ancora intervenire. Detto questo, Loi, comunque il Jobs Act, nei decreti attuativi che abbiamo ricordato, cioè sia per le procedure di licenziamento, innestate alla cosiddetta tutela crescente triennale, sia per quello che riguarda gli strumenti di sostegno al reddito per chi perde il lavoro, nella realtà frammenta ulteriormente il mercato del lavoro italiano, perché noi avremo, grazie alla nuova disciplina, i nuovi assunti che fin dall'inizio entrano sotto la disciplina del licenziamento come viene definita. Abbiamo i vecchi assunti che restano con la vecchia disciplina. Abbiamo coloro che dovranno cambiare azienda, come capita, sui 10 milioni di contratti annuali, sommando quelli di tutti i tipi, è 1,5 milioni di gente che cambia azienda. E si dovranno porre il problema a quel punto anche di fare il peso tra la vecchia disciplina più tutelante e quella nuova meno tutelata. Abbiamo poi la distinzione, ovviamente, di cui parliamo oggi, ma quella ha fondamento nell'ordinamento tra pubblico e privato. Nel sostegno al reddito, che pure viene portato fino a 24 mesi con la nuova ASPI, abbiamo la parte più bassa dei lavoratori freelance e partite IVA che vengono ammessi a un sostegno al reddito che dura solo 6 mesi e non 24 mesi, che sale rispetto ai 18 attuali. Quindi la risultante è quella di un sistema fatta a pezzi a colori. Ecco, ma questa cosa qua, questa che riguarda tutto il mondo del lavoro privato, non poteva essere congegnata meglio, secondo lei, Loi? Adesso noi, forse per motivi non proprio convergenti, insomma, ci abbiamo fatto uno sciopero. Io aggiungerei che la frammentazione non è solo quella che lei ha appena descritto. Rimane piccole imprese sotto i 15 e sopra i 15. Rimarrà un mondo che ad oggi, salvo miracoli nelle prossime settimane, non credo che si estinguirà il contratto a termine e rimarrà forse meno lungo. Le collaborazioni siamo sicuri che termineranno? No. Ho qualche dubbio. Ma io poi soltanto... Le partite IVA addirittura, secondo me, non potranno essere neanche toccate, violazione costituzionale, quindi il tema là si porrà sotto forma di quali tutele, e non mi pare che i segnali da questo governo siano di grande, come dire, riconoscimento a questo mondo. Non è detto che il lavoro a chiamata scomparirà, ma quindi a tutto quello che lei ha descritto rimarrà una parte della frammentazione che ci stava fino adesso. Sugli ammortizzatori credo che sia ancora peggio. Primo, i 24 mesi saranno per pochi eletti, si fa per dire, perché parliamo sempre di una tutela per chi ha perso il posto di lavoro, cioè di avere un'anzianità consolidata, sì. E dal 2017 tornerà ad essere 18 mesi, cioè che la signora... Ah beh, lì bisognerà trovare le risorse, ovviamente. Assolutamente trovare le risorse. Nel frattempo usciremo dalla indennità di mobilità, che può piacere o non piacere, tutela qualche centinaio di migliaia di persone. Usciremo probabilmente in maniera più rapida dalla cassa in deroga, tutto comprensibile e condivisibile. Il risultato è che oggi il sistema degli ammortizzatori è fatto per gli anziani, eh sì, e non per i giovani. Questo è un fatto, secondo me, proprio è un fatto. Questo che ha appena detto lei è uno dei fatti più gravi, e secondo me quindi resta che, diciamo, diamo un anno di verifica di che cos'è la somma di tutti questi decreti attuativi. Poi stiamo ancora aspettando quelli fondamentali sull'agenzia del lavoro, cioè sulle politiche attive per il lavoro e così via. Però poi inevitabilmente, cari ascoltatori, bisogna rimetterci mano, perché bisogna tentare di unificare e dare un'omogeneità. Cioè, io capisco Renzi, ha dato la spallata, molti sono critici e non volevano quello che comunque ha fatto, siamo qui anche per criticare, ma leviamoci dalla testa che può rimanere tutto così. E questo, secondo me, a prescindere che la si pensi diversamente, anche lui non la pensa come me, io non la penso come Renzi, ma comunque bisogna tentare di poi di mettere una simmetria tra il tutto, perché altrimenti rischiamo davvero fortissimamente, perché avere gli strumenti di sostegno a chi perde lavoro solo per chi è più avanti e non per i giovani, eterna è il problema di questi anni, per cui abbiamo dato il precariato soprattutto ai giovani, non è che lo risolvo, capite, lo è eterna ed è il contrario di quello che serve per alzare l'occupabilità. Ad Alberto da Carbonia, come la pensa? Io la penso in un modo molto strano. Niente, io volevo intervenire perché ascoltavo questa storia della diseguaglianza, sì, tra pubblico e privato, che è assurda, perché non ci deve essere assolutamente, anche perché non dobbiamo dimenticarci, mi perdoni se lo dico questo, che gli stipendi degli statali sono pagati esclusivamente, certo, da ciò che versano gli artigiani. Ci siamo, è chiaro che non è che è lo Stato che li produce i soldi con cui paga i dipendenti, quindi viva l'omologazione, però ci dovremmo impegnare per averla, non è una cosa automatica, questo andava detto, perdonatemi, comunque la si pensi. Io ringrazio Guglielmo Loi, continuate con Radio 24, appuntamento com'è domani.